presenza c'è gioia perfetta, alla tua destra felicità senza fine. La mia gioia non dipende più dal mondo, ma dal tuo amore che vive in me. Sono felice, veramente felice. La mia gioia viene da te, Signore Gesù. Sono felice, veramente felice. La mia vita è nascosta in Dio. Anche quando la notte viene a coprirmi, la tua gioia mi insegna a sorridere ancora.